Perché vai di fretta? Forse hai perso qualcuno. I ricordi ti rincorrono, ti senti cadere, ma non lo dici a nessuno. E a quelli che ti chiedono, inventerai qualcosa sul momento. Sì, è cadere, ma con stile. E il dolore porta un senso di novità. Ma senti sta canzone, Lorel. Butta via la testa e tieni il cuore. Senti sta canzone, Lorel. Butta via la testa e usa il cuore. E tu tanto non lo ammetterai che girare a Milano, tenere sempre il bicchiere, non ti è piaciuto mai, no, lo vedo ben sai, oh, oh sì, è cadere, ma con stile e il dolore porta un senso di maturità, ma senti sta canzone. Porta un senso di verità.